Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. All'ombra del palmo di mano, dalla A alla G, inizi e fini della gloria. Lezio magistralis di Alessandro Bergonzoni sul tema La gloria. Una lezione magistrale, è qui con me colui che non più tardi di stamattina è stato definito come l'outsider di lusso di questo festival. Più che un outsider è un affezionato... Outsider di lusso. Di lusso mi piace, però più che un outsider io direi un ospite affezionato, un interprete, un attore, un autore, un performer, la cui gloria artistica, ma anche filosofica, ovvero una gloria intesa come quell'amore che ci ispira ciò che le parole e anche i giochi di parole possono insegnarci. Questa sera il suo contributo si intitola All'ombra del palmo di mano, dalla A alla G, inizi e fini della gloria. Alessandro Bergonzoni. Grazie, grazie, grazie. Ciao Carpi, Carpi, o Carpigiano, portami via. Ciao Carpi, gloria a voi, a te, a te, a te, e basta. Gloria a tre, che è già un formato molto particolare, alleluia, è un inno. Stasera vorrei provare a fare un inno alla gloria, gli inni. Gli inni erano dei barbari che arrivavano nei paesi. I tedeschi non facevano niente, loro cantavano. Poi c'erano gli unni, più barbari, gli uni e gli altri. Gli uni erano... attaccavano da soli, che erano i più... Dice, sono arrivati gli uni, dov'è? È in salotto, lui era... La sua gloria era quella di essere da solo, la gloria della solitudine, gli uni. Gli altri erano... Poi c'erano i cenni... Cenni erano solo gesti. Allora il gesto è glorioso. Molti amici, stasera qualcuno può dire molti amici, adesso mi siedo. Molti amici, molti. Mi piace avere amici? No, non mi piace, mi piace, quanti mi piace. Io non ho Facebook, non ho amici, quanti amici. 2 su 10, sembra più un'orgia che 2 su 10, oppure 10 su 10. Molti paracadutisti che hanno perso il controllo, 10 su 10, qual è? Qual è la percentuale di amici? Quanti amici hai? Non ne posso più degli amici. La gloria, avere molti amici è gloria. Avere molti amici è gloria. Dio, Dio di chiunque, Dio mio, Dio tuo, Dio suo, chiunque. Qualunque Dio, entità, numi, santi, santi numi. E non, anche tu e non, anche tu e non. E non, una grande divinità, e non, una delle più grosse divinità. E non, mi senti e non, mi vedi e non, mi vedi e non mi senti, mi vedi e non mi senti, e non, rivolgo a te la mia preghiera e non, su internet, senti, su internet, senti com'è, poco sano, su internet non si butta via niente, su internet. Lancio un'oppa, ho paura di questa gloria, ho paura di quella gloria, ho paura. Oggi, stasera, domani, sempre, perché devo parlare oggi? Sempre, qui, ovunque, qui, come se uno fosse qui. E l'apparenza, apparire, dice l'apparenza è sbagliata, pensa poter apparire al casello di Melegnano e stare qua, l'apparenza è meravigliosa, poter apparire. La gloria è fatta anche di invisibilità, soprattutto di invisibilità. Farò una lezione, non lo so. Sei un filosofo, non lo so. Anche. Allora è uno spettacolo? No, forse. È un incontro? Non lo so. È uno scontro? Non lo so. Non è un comizio. E se fosse molto di più? E se tanto mi dà tanto? Accettalo. Se ti dà tanto, accettalo. Ma se tanto mi dà tanto? Senti come la gloria ti chiede, la gloria non sei tu. E voglio parlare di queste quattro persone questa sera. Quattro soggetti che mi hanno ispirato questa lezione. I vanagloriosi. I vanagloriosi è una delle donne che io stimo di più. I vanagloriosi è una donna che ha creato per me la differenza tra gloria e fama, tra celebrati e decelebrati, celeberrimi e deceleberrimi. Insieme ai vanni gloriosi, Ivana Gloriosa è di nessuno, è di nessuno. Di chi è? Di chi è la gloria? È di nessuno, è di nessuno. È il suo soprannome, è di nessuno. Ti dimostra che la gloria non è di nessuno. La gloria è sospesa. Ah, non c'è più, no, la gloria è sospesa. È a mezz'aria, non è tua. È di nessuno, ma ha detto che... E allora dice, ma perché tu ti mostri? Perché tu vieni qui? Dopo ne parliamo, c'è un dopo, ci sarà, c'è sempre un dopo. Lina d'adeguatezza. Io stasera vorrei parlare di Lina d'adeguatezza. È una spagnola che fa sentire noi, che deve far sentire noi, famosi, no, conosciuti forse, amati chissà. Gloriosi mai, l'inadeguatezza. Non sto bene, non mi sento all'altezza. Donando, Donando è il quinto personaggio. Donando è quello che darsi per vinti. La gloria ti chiede di darsi per i vinti. Ecco la differenza. Molti dicono giochi di parole, le parole non... Le parole giocano con noi, non sono io che gioco con le parole. Darsi per vinti. Stasera ometto. Senti la parola, ometto. Che sembra qualcosa di dimenticato, ma è anche qualcuno di molto piccolo. Forse ometto vendette, che è un verbo. Vendette, ometto vendette Armando. Armando! È il tema della guerra, io voglio parlare di guerra. Ometto vendette, cioè dimentico di dire che io faccio guerra per vendetta. Ometto vendette Armando. Armando, armandosi, c'è gloria, modestia a parte. Il tema di stasera non è la modestia. La gloria non è fatta di modestia, è fatta di umiltà. Molti gloriosi sono modesti, molti gloriosi sono modesti. La gloria, abbasso la gloria va abbassata, abbassa la gloria, abbassala. È come un tono famoso, come si può essere? Oggi ho sentito parlare di essere celebrati da chi? Come fai a essere celebrato? Le opere, l'eternità, per rimanere nell'eternità. Io sono l'eternità, non rimango nell'eternità, non è una biografia, non posso essere la biografia della mia vita. Se uno fa delle opere, operare, siamo opere, operanti e operabili. Io non sono uno scrittore, la scrittura non è la mia gloria non esiste, la gloria di Leonardo, la gloria di Calvino, e li saluto tutti perché so che mi stanno ascoltando in questo momento, perché sono ancora vivi, la loro gloria non è fatta da loro, è la gloria che preesiste, la gloria, stasera il titolo è all'ombra del palmo di mano, all'ombra del palmo di mano, portare le persone in palmo di mano, alzarle. Vedete, io se mi metto con l'ombra del palmo di mano, la luce non la ricevo più, c'è un'ombra. La luce mi acceca, la gloria è accecante. La gloria acceca, è di una bellezza accecante, è di una bellezza abbagliante. La bellezza può essere di tre tipi, abbagliante, anabbagliante, e di posizione. Vi prego, fermate l'applauso, dopo vi spiego perché. La bellezza di posizione, non sei bello ma fai un bel lavoro, quindi mi piaci per quello. Si chiama bellezza di posizione, cioè mi interessa la tua posizione, non la tua estetica. Ecco, allora, abbagliante è quando vuoi sorpassare qualcuno. La bellezza, la gloria non ti fa sorpassare qualcuno. Dopo parleremo, ma chi dice con noi? Dopo parleremo appunto di questo. La bellezza mi fa sentire qualcuno. Ma non io, non mi sento io. Una cosa che mi rattriste sempre è che io non riesco mai a guardarmi. Ogni volta che cerco di guardarmi, la gloria è fatta di questo senso, ogni volta che cerco di guardarmi non mi vedo. Io non ce la faccio mai. È quell'invisibilità lì che mi interessa. La gloria ti fa sentire qualcuno. Ma cosa credi? Ti fa sentire qualcuno. Ecco, questo vuol dire che non sei tu qualcuno, ti fa sentire qualcuno, cioè senti gli altri, sentire gli altri, sentire quelli che non ci sono, sentire gli invisibili, sentire gli inguardabili, sentire gli intoccabili, ti fa sentire qualcuno. Odi, capti, odi, da udire, non da odiare. La bellezza è questa. Immortale e quale, nel senso infinito. La gloria lavora sull'infinito, ma non sull'io infinito, sul togliere la paura dell'infinito, dell'essere qua in questo momento, ma del poter essere in un altro posto, con l'intenzione, col pensiero, con l'energia, con la forza, con la frequenza. Con quale frequenza vai dentro un carcere? Con quale frequenza sei in un paese di guerra? La frequenza, mai, non ci vado mai, forse nei carceri di più, ma la frequenza è quella vibrazione che mi porta non a essere glorioso, ma a conoscere le glorie degli altri, a sentire, quando cominci proprio a sentire qualcuno. Star, non mi interessano le star, star ferme. Molte star sono ferme, star ferme nasce da questo. Chi sei? Molti uomini dicono, sono un piccolo uomo. Però se guadagni miliardi sei un grande uomo, la gloria. È incredibile. Come essere sei piccolo, sono solo un uomo. E come produttore, imprenditore, sei glorioso perché sei famoso, perché ti riconosco. È impressionante come essere piccoli nella grandezza e grandi nella piccolezza. Non riesco a capire perché. È un senso luminoso, la gloria è un raggio di sole che puoi emanare, è emanazione, emanità. Stasera voglio parlare di emanità, non di umanità. Il raggio di sole fa un viaggio di sola andata, il raggio di sole, non torna indietro, non ritorna al sole, non gli ritorna niente al sole. È una luce di sola andata, quella è una gloria da emanazione, è una gloria sovrumana. Io la chiamo la luce sublime, è quella che qualcuno può chiamare la sovrumanità. La guerra è umana, lo stupro è umano, il femminicidio è umano. È la sovrumanità che viene richiesta. È lì dove gira la gloria. La gloria è di nessuno, me lo diceva. La gloria non la vivi tu. La gloria non la vive chi la prova. La gloria lavora attorno, la gloria è invisibile perché ti acceca, ha una forza. La gloria è annusata. La gloria è un mistero, è segreto, è buttato fuori. La gloria delle lacrime, capitale interamente versato. Le lacrime sono capitale interamente versato. È la forza. Io perché mi sento inadeguato? L'inadeguatezza è la donna che mi fa capire che sono inadeguato. Non solo non sento la gloria, non solo non sento la fama, non solo non sento la celebrità che non ho, ma sono inadeguato, mi vergogno di avere un figlio. Mi vergogno di avere un figlio vivo, mi vergogno di essere sano in questo momento, mi vergogno di avere un lavoro. La potenza della gloria lavora al contrario. Mi scuso, mi vuoi scusare? Quando si va davanti a un prete ci vogliamo scusare. Voglio provare vergogna, prova vergogna, la provo, come ti sta? Bene, la tengo. È una sartoria la gloria, lavora sulla sartoria, su misure. È un lavoro, è una forza che ti fa sentire grande in quanto grandezza, non le manie di grandezza. Tutti sanno chi sono, tutti mi celebrano. Ma la grandezza della tua vergogna, della tua inadeguatezza, della tua incapacità che ti muove per diventare capace, per avere bisogno di non accettare di essere solo qui in questo momento. Non è una forma di eroismo. Non c'entra, la gloria non c'entra niente con gli eroi. Non c'entra niente. È una forma di imbarazzo. È una forma anche di paura, è una paura sana. La gloria non c'entra coi soldati, soldati da soldi, soldati a soldati. Achille, Aiace, Ulisse, che saluto tutti in questo momento. La spada, l'eroismo che porta la gloria, la spada. Chi di spada ferisce, la smetta. La smetta. La smetta. Sei epico, il potere da potenza, la gloria non ti dà potere, non ti dà comando, la gloria ti dà un'entità, un peso, sua entità, figli della gloria, i figli, eredi, ereditare, ereditare vuol dire avere le stesse tare del padre, ereditare, l'ereditarietà. La colpa, ma non la colpa che ti fa fermare. Sono colpevole, non sono innocente. La gloria ti fa capire che tu non sei innocente mai. Anche quando una pallottola vagante colpisce una persona che non c'entra, ma chi è che non c'entra? La gloria ti racconta che in quel momento tu c'entri sempre. Noi c'entriamo sempre, c'entriamo con tutti. La gloria lì si trasforma in amore, ma amare chi non conosci, non chi conosci, facile amare chi conosci, lo conosci, a parte che molti se lo conoscono proprio dice, dato che lo conosco ti dico proprio, non lo amo. Amare chi non conosci è anche più vantaggioso, se mi permette la parola, è amare chi non conosci, poter dire lo amo proprio perché non lo conosco. Lo ami perché sei uguale, lo ami perché hai paura uguale. Il palmo di mano è questo, lo sollevi, sollevare da una responsabilità, ma lo porti in alto. La gloria è il punto più alto, è il punto più alto, oltre. Qual è l'uomo d'onore? Cosa significa uomo d'onore? I maestri, la scuola, i fuoriclasse. Oggi amiamo i fuoriclasse, io direi a molti fuoriclasse, tornate in aula, tornate in aula. Ho la gloria del fuoriclasse, dentro, un bidello esistenziale, ho la necessità di un bidello esistenziale che faccia tornare in una certa direzione, in direzione, in direzione. È una forma di direzione. Ci sono insegnanti che hanno classe da vendere perché non hanno più niente, non hanno più niente. Insegnanti che hanno classe da vendere per prendere dei banchi, per prendere la carta igienica. Classe da vendere. È gloria, lì non c'è la gloria. Lì non c'è gloria, c'è il contrario, ma c'è la gloria. C'è la gloria. Una gloria è morta, ma non fermatevi ai concetti dei nomi, la nomea, non mi interessa la nomea. Lì c'è classe da vendere, manca la carta igienica. Ci siamo mai chiesti se sulla carta costituzionale c'è qualcosa che spieghi come recuperare la carta igienica? Recuperare nel senso buono, no? Si chiama poi carta igienica, vedrai che se fosse carta igienica non farebbe quel lavoro, ma non è. Ma io queste robe qui, uno dice, ma tu le pensi? Beh, secondo voi, uno può pensarla questa roba? Uno di quei barbari, gli uni. Non, Questa roba è in giro, è sospesa. Viene da me e mi dice, posso entrare, puoi dirmi, puoi dirmi? Il puoi dirmi non è io dico al sospeso, alla scrittura, all'arte, alla filosofia. Puoi dirmi, cioè io ti suggerisco e tu dici, dici. La meravigliosità di captare con la frequenza quello che non sai. I non sai, in uno spettacolo i non sai erano uomini piccoli che non crescono più, si chiamano i non sai, ma tu non sai, io non so. Allora è l'arte che arriva prima, attraverso la gloria è anche la grazia, saluto, la grazia, grazia mundi, è una grazia cosmica che ti arriva e ti dice, pensa a quello e scrivilo, fallo, muovi il gesto. Entra a far parte. Non è che io abbia la gloria di averlo inventato, di averlo pensato. Non è così. Non ho modelli. La gloria dei nostri modelli. Io, il mio idolo, il mio esempio, gli esempi sono finiti, finiti. Io sono l'esempio, noi siamo l'esempio, ognuno di noi è l'esempio. Come fai solo per aver fatto un sacco di film? Come fai solo per essere popolare? Come fai a sentirti carico di gloria? Vinto, vinto, vittoria, grazia, gloria. Ma chi è sta gente? L'inadeguatezza è la mia dea. Quella che ti fa capire. Fermate l'applauso, dopo vi spiego perché. L'eccellenza, l'Italia è piena di eccellenze, ma se non ci sono gli eccellenti, che cosa me ne faccio delle eccellenze? Abbiamo parchi meravigliosi, abbiamo luoghi meravigliosi, gloriosi, ma non lo capiamo, manca la captazione, manca la frequenza. E anzi, ve lo dico anche con un po' di pazienza, ma che cosa vi dobbiamo dire ancora? Tutto oggi, tutto domani, ma sono venuti tutti, filosofi, artisti, poeti, ve la stanno dicendo, ce la stanno dicendo in tutti i modi, ma non abbiamo capito che la gloria è l'applicazione nostra, che siamo noi i filosofi, siamo noi i poeti, siamo noi gli artisti. Non è più possibile credere che un artista ti possa... E dice, ma tu perché sei qui? Tu perché allora sei venuto? Una domanda alla volta. È che io già ricevo i pensieri, mi chiedono di parlare, mi fanno anche delle domande. Ma questo però è il ritmo. Il ritmo sta lì. Me ne frega niente. Il carisma è l'aurea. È quello che c'è attorno a un pensiero. È un'idea che arriva. E quelli siamo noi, abbiamo quella potenza lì. Abbiamo quella potenza lì. Ma chi ve lo deve dire ancora? Io sono il Papa, io sono il Papa. Gloria al Papa, ma gloria al Papa che è in noi. Io devo dire le stesse cose che dice il Papa e fare le stesse cose che fa il Papa. Se io devo dire le stesse cose. Non posso più leggere libri, non si possono più leggere libri. Dobbiamo cominciare a scrivere i discorsi del Papa, li dobbiamo scrivere noi. Se non li vogliamo scrivere, continuarli. Avete ancora bisogno di un modello, di qualcuno che da adorare, adorazio, reputazio, in iugi tempo, come disse Seneca, come disse Lucrezio. E te, come dici tu? Tu come dici? Come dici tu? Lucrezio, Seneca, sono anche morti. Non vedi che non stanno su, ma sono ancora vivi, più vivi di alcuni vivi. Non puoi ancora cercare lì, incensare l'insensato, dice, ma e io stasera poi non ne voglio parlare, farò un excursus velocissimo in questa lezione di quello che è basso, dice, ma perché parlarne? Perché comunque è uso dell'ironia, della satira, parlare del basso, ma intanto quella entra, lavora sulla gloria, la schianta, la svuota, quella vera. Le persone che sono proni davanti a un idolo, proni, dillo tu, fallo tu, i famosi 10 demandamenti, fallo tu, pensalo tu, decidilo tu, le proni. Che animale, Che animali sono le persone proni? Leproni! Queste bestie ferme, questi leproni, cosa fanno? Covano, si muovono, hanno denti, che cosa fanno? Dipendenti dal plauso, ma applaudire, ma invece di applaudire, fermiamoci durante un funerale, fermiamo l'applauso, fermiamolo, formerà un'unità di misura. Pensate mentre state per applaudire, bloccate l'applauso e viene fuori la misura, tanto così, poco così, tanto così, poco così, manca così, manca così. E noi lo schiacciamo, è un'unità di misura importante, lo so, è inutile. Bisogna essere qui per lavarsi, bisogna essere qui per dimenticare, meno medaglie e più petti, vogliamo più petti e meno medaglie, vogliamo meno polli, più petti e meno polli, più petti e dentro il petto meno cosce vogliamo anche, molto meno cosce. E questo non vuol dire il pollo, molti... Ho conosciuto, mi devo poi decidere, ho tanti incipiti, ho conosciuto, questa poi la forza, quando ascolti molte voci arrivano, dice ma sento le voci, anch'io, ma tu le senti perché stanno parlando, è chiaro se le senti, quanta gente, senti le voci, sì, stanno parlando, ma prova a sentirle quando non parlano. La grande forza, la gloria interiore è sentire Beethoven, ma non con la musica di Beethoven, non ce la faccio più, andiamo a sentire Beethoven, mi commuovo, piango, torno a casa. Prova a sentire Beethoven senza sentire Beethoven. Ma perché devo guardare la pietà di Michelangelo per guardare la pietà di Michelangelo? Perché non riesco a vederla senza che ci sia la sua? Per quale motivo? Per quale motivo non ce la faccio? Allora, il lavoro è questo. Stavo dicendo prima, tra me e me, quindi in uno spazio anche che si restringe sempre di più. Un uomo ha mangiato il pollo con le mani e dice, che problema c'è? L'unico esemplare al mondo di pollo con le mani, lui? Se ne va. Allora, no, bloccare l'applauso. Il lavoro sta lì. È un insulto alla gloria. È un insulto alla gloria. La sicurezza davanti a tutto. La sicurezza prima di tutto. Lo dicono tu, la sicurezza prima di tutto. Molta gente è sicuro, è cretina. Sicuro! La sicurezza non vuol dire solo mettersi il casco, stare attento. È sicuro! Ma dice, ma chi sei tu per dire questo? E me lo domando anch'io, chi sono io per dire questo? La gloria, il giudizio degli altri. Abbiamo bisogno del giudizio degli altri. Cosa diranno? La fama, e se perdo la celebrità, se perdo... Certo che ci sono queste paure. Il giudizio degli altri. Io ho paura del giudizio degli altri. Ma ce l'hanno? Ce l'hanno? Gli altri il giudizio ce l'hanno? Io ce l'ho. Non il giudizio degli altri, è il giudizio. Usa giudizio, diceva. Mania di grandezza, dipendenti da applauso. Osare, io provo a venire qui, provo a fare questi incontri, dice, ma perché allora, se ti dà fastidio, se ti senti inadeguato, perché provo ancora a dosare e osare, provo a dosare, provo a vedere se in qualche misura posso riuscire a fare passare dell'elettricità, posso riuscire a fare passare, se riesco, della vibrazione, del suono. Noi abbiamo dei suoni, il corpo suona, dentro di noi gli organi suonano, hanno un loro suono. Ecco perché prima vi dicevo Beethoven, potere sentire, c'è una musica naturale, naturale. Noi siamo pezzi di natura continuamente. Molti abbracciano l'albero, dobbiamo abituarci a guardare gli alberi senza gli occhi. Molti dicono, ma la maggior parte degli alberi è senza occhi. Perché io ho fatto un incontro in un asilo e ho detto che bisogna andare nelle scuole a parlare, come dico sempre tardi, negli asili bisogna andare a parlare. E in un asilo, quando comincia a dire dobbiamo cominciare a guardare gli alberi senza occhi, loro sono giù di testa, perché dicono Adesso, ma tu hai mai visto un albero con gli occhi? Dico, certo, è tutta la vita che io vedo gli alberi con gli occhi. Capisci? Non avranno carta igienica, non avranno banco, ma se te vai lì e gli dici due o tre cose così, come mi vanno a casa? Non vanno a casa, non vanno più a casa, è lì! C'è gloria e gloria, che poi sono le loro tate. È lì. Allora è là dove devi andare, a osare, a provare, a raccontare ai bambini. Non puoi raccontarlo, è tardi qua, è tardi. È tardissimo, è tardissimo. Là c'è il Parlamento, negli asili c'è la vera gloria, gli racconti la sopravvalutazione, gli racconti cose che non siano, gli racconti che non è curioso vedere in internet un incidente, uno che è morto in un incidente tra due treni, sfortunatissimo, era proprio in mezzo a due treni, però l'ho scaricato su internet. Su internet ho visto un incidente tra un pony, un aereo e un cavallo piccolo. Disse, ma non era il pony? No, proprio il pony era uno che portava delle buste, quindi l'incidente. Allora il bambino, altro che su internet, gliela racconti tu, gli racconti che esiste. Allora dice, ma in questo modo come si riduce il bambino? Non si riduce, si allarga. Come siamo ridotti? Il tema è come siamo ridotti a forza di certezze di gloria, di certezze di fama. È l'incontinuazione, è una ricerca continua. Noi dobbiamo ricercare nelle università. Università dovrebbe nascere da universo. Dobbiamo cercare tutto quello che non vediamo. È la ricerca percettiva, gli impulsi. Noi abbiamo delle parti del corpo che hanno delle specie di sensori, e dopo vi spiego che cos'è questa fascia. Noi abbiamo dei sensori nella macchina, in alcune macchine ci sono i sensori perché se abbassi le palpebre, ti addormenti, la macchina frena, ci sono dei sensori che se entra uno che non ti sta simpatico, piano piano va verso destra, ci sono. Se metti certe valigie non fatte bene, il baule faccio più pianino, ci sono dei sensori del gas, senti se c'è gas in cucina, suona sempre, no, se c'è la fuoriuscita di gas, se il gas va via, ma abbiamo altri sensori addosso, li abbiamo addosso noi, leggo su certi giornali la domenica le pagine di alta tecnica, di ricerca, riusciamo probabilmente con una mano bionica, ma ce l'abbiamo già la mano bionica, ce l'abbiamo già, quando facciamo così, e diciamo a qualcuno, attento a te, poi facciamo così. E abbiamo dei sensori che ci fanno capire che da così si può passare così. E l'elemosina, che insieme a Eddie Nessuno, l'elemosina è con questo gesto dobbiamo abituarci a sentire. Noi quando vediamo una persona per la strada, senza gloria, che ci chiede l'elemosina, ha questa mano, questo gesto che sembra che dice, piove oggi? No, quella così è piove, così è, piove non ho soldi. Allora, il tema, questo gesto, lo dobbiamo sentire mentre lo facciamo, ma non perché siamo poveri. L'alibi del non essere poveri, se non saremo mai poveri, l'alibi del non essere malati, se mai saremo malati, l'alibi del non morire sopra una mina, non tiene più. Non sono gloriosi quelli che poi vanno a salvare quelle persone, sono uomini sovrumani, e quella loro gloria noi come la possiamo trasformare, tradurre, cominciando a sentire, prima dissentire, forma di dissenteria totale, no. Non voglio accettare che solo guardando un'immagine su un video io vedo qualcosa, dissento da questa, ma sento a seconda della posizione, sentire anche, alle volte, perché solo se non siamo ciechi non tocchiamo niente? Perché non cominciamo a toccare? Perché non cominciamo stasera quando andiamo a casa ad attaccarci ai muri di casa per sentirli, per sentire come sta su? Per cominciare a sentire come sta su un muro e per sentire percettivamente chi in quel momento sta provando a tenere su una casa che crolla per un qualsiasi motivo, un terremoto, una bomba, invece di aspettare la gloria dei salvatori, degli eroi, dei popoli, iniziamo la casa, quella gloria lì. Siamo filosofi lì, siamo poeti, siamo artisti, facciamo un'installazione artistica. Cominciamo a vedere un muro, a toccarlo, cominciamo a toccare quando siamo in un ristorante qualcosa per sentire. E questi, abbiamo dei sensori che ci fanno capire di più. L'altro giorno io ero inginocchiato dietro a un bidone della spazzatura, mi stava allacciando una scarpa. In quel momento, quella posizione mi ha fatto sentire, ci vuole un po' di esercizio, ma andiamo in milioni di palestre, facciamo milioni di corsi, possiamo fare questo esercizio sul nostro corpo, corpo glorioso, ma non perché è nostro, perché ci mette in comunicazione con gli altri corpi. Mentre ero lì giù, ho pensato a uno in Siria che si nasconde dietro un bidone della spazzatura per evitare i cecchini. Quella posizione, in quel momento, io sono stato dietro, dice, ma ho bisogno veramente di vedere una fotografia su un giornale per capire, o io posso essere lo sceneggiatore, il fotografo, il soggetto, dice, ma tu poi non muori. Ecco l'alibi, tu non sei glorioso. E allora con l'alibi di non sentire questo, io non devo sentire nulla, sentire. E uno dice, ma è un'intenzione, non è ma l'intenzione, lanciare un'intenzione, la potenza delle intenzioni, c'è chi le chiama anche preghiere, ti prego, ti scongiuro. Dice, ma allora perché piangi? Alle volte verrebbe da chiedere, ma perché non piangi? A me verrebbe da chiedere veramente a molte persone, perché non piangi? Perché non piangi? Che cos'è che non ti fa piangere? Allora, il bisogno è quello di andare a diventare più grandi, non gloriosi, non celebri, non famosi, non importanti, non adorati, non lodati, ma essere più grandi. Questa è una mania di grandezza, no, è la grandezza che ci viene richiesta da tutte le glorie, questa non è la medaglia nel petto, non lavora in questa direzione. Lo studioso studia, spiega che cosa succede, qual è la percentuale, chi sono quelli, come si vive in quel modo, la gloria di te. Ci raccontano le gesta più epiche. Noi abbiamo a disposizione gesta epiche. Noi siamo Omero, noi sappiamo andare, tornare, l'uomo tesse. Siamo quella che tesseva era Penelope, Cleopatra, Clessidra, tantissime. Santi Dio, è una storia impressionante. È il 1400, il 400. Dite 1400, quando dicono nel 400. Ma il 400, il 1400 o 400? Adesso, ma è lo stato confusionale quello. Noi ci abitiamo in uno stato confusionale. Ma è lì. Ma lo stato di grazia. Di grazia. Qual è lo stato di grazia? Si sarebbe detto nel 700, 1700, 750. Coupé. Qual è? Sei basso, ci sono secoli più bassi. Qual è il basso impero, il basso l'evo, il medioevo? Qual è? È questo, prendere posizione non significa cliccare su qualcosa, non significa partecipare. Prendere posizione e cominciare veramente, anche cominciare quando cerchi qualcosa, orologio, telefono, ferro da stiro, calza scarpe, quando cominciamo a cercare, cuore, figli, quando oddio, non c'ho più. Cominci a sentire questo gesto che vedi, dopo parleremo di cinema, dopo quando? Il momento del cinema. Quanti, dopo uno scoppio di una bomba, dopo un colpo, quanti film guardiamo, eroici, gloriosi, dove qualcuno guarda l'altro ferito e morto, lontano da lui, di fianco a lui, poi si tocca lui per vedere, ed è salvo, cominciamo a fare questo gesto per vedere chi è salvo, chi è gloria, chi è vittoria, per vedere dove ci hanno colpiti, dove non vediamo che ci hanno colpiti, Dove possiamo fare tutto questo? Ecco perché io faccio ancora serate come queste, non per raccontare solo cosa faccio, che ora scrivo, che ora mi alzo, dove vado, cosa mangio, non avendo Facebook, non avendo Twitter, non mando dove sono la pizza, è un concerto di internos tra di noi, di telepatia. Il lavoro che ci viene chiesto non è solo di ascoltare chi viene qua, di leggere i libri, è di cominciare a diventare. La potenza di questo diventamento sarebbe una potenza esplosiva. La piazza interiore lavorata produce una potenza, un fuoco, una forza di luce che difficilmente non arriva ad altri, difficilmente non contagia. Lo stesso contagio con cui certa pubblicità, certa invasione, certa imposizione ci chiedono di stare in quella posizione, crea una sequenza di similarità. E come potete pensare che la forza, la luce, se noi cominciassimo a farla implodere ed esplodere, non potrebbe cominciare a muovere un'energia solare, forza. Oggi sentivo in radio a Fahrenheit, hanno detto che noi siamo pezzi di stelle, che noi siamo polvere di stelle, e dopo parlerò del tema di internet, di cose, non perché voglio fare la parodia di chi clicca, ma perché la parola polvere di stelle è usata per spumanti, è usata per cuoricini, è usata per boccucci, fiorellini, e quando mi dicono della polvere di stelle che lavora in un concetto cosmico, in un concetto metafisico, mi viene un po' da ridere. Io sono preoccupato perché alcuni cioccolatini hanno devastato l'idea delle polvere di stelle. Ah, le stelle, la stella. Allora uno dice, ma che te ne frega a te? Tu non parlare di stellina. Ma poi io mi trovo a parlare con della gente che se dici polvere di stelle si ricorda. Allora capite il lavoro profondo, inglorioso, che ci hanno chiesto di fare per perdere la potenza di alcuni significati, la potenza, perché poi uno fa la sua lezione, spiega che andiamo male, spiega, e poi, quando io ho finito la mia lezione, epos, poiesis, e poi, quando si va a casa, allora non si va più a casa. Non c'è più casa, non ci si difende più in nessuna casa, non abbiamo più case dove proteggerci. A casa non dice, ma stasera quando vado nel mio letto, il tuo letto non c'è, ho un letto a due piazze. No, il letto su cui andiamo è un letto a milioni di piazze, un king size, dove ci sono tutte le piazze del mondo, le piazze delle rivolte, la parola rivolta, la parola rivolgere, la parola ma anche rivolta. Le piazze dei bambini, le piazze della pace, le piazze dei papi, le piazze del rock, tutte quelle piazze, siamo nello stesso letto, siamo in quel letto lì, non siamo nel nostro letto. Ci hanno fatto capire che uno è glorioso, l'altro è un grande religioso, uno è un filosofo, uno è un attore, uno è un artista e in mezzo ci siamo noi. Assolutamente no. Anche la piazza, questa piazza non serve a nulla se non entra nella propria piazza e comincia a lavorare. Una piazza così, tutte le sere la potete fare voi, singolarmente, tutte le sere, raccontarvi, guardare, pensare. E uno dice, ma io così divento pazzo? Oh! E di che pazzia stiamo parlando però? La due, perché la uno è la pazzia che viviamo tutti i giorni. No, perché se uno non vivesse una follia, non diciamo, non leggiamo su questi famosi social network, su questi media, non sentiamo la pazzia, lo diciamo, no? Che uno che si uccide per il lavoro, non è pazzia questa, pensare ancora che ci sono poliziotti, alcuni, che hanno costruito il gesto. Voi quando andate giù a chiudere la valigia, quando chiudete una valigia che ci andate sopra, io almeno faccio così, mi chiamo anche della gente, questo gesto, quante volte lo abbiamo visto, ce lo siamo sentiti raccontare, che alcuni poliziotti lo fanno per fermare qualcuno, E quando va bene lo fermano, quando va male lo uccidono. Qualcuno, qualche volta. Io non voglio farne una questione politica di questo, ne voglio fare una questione scultorea, artistica, quel gesto, la gloria di quel gesto che non c'è. Noi possiamo viverla e far sì che qualcuno, andando nelle scuole, io lo voglio raccontare, perché negli asili ci saranno i poliziotti di domani, i banditi di domani, i magistrati di domani, ci saranno le glorie, tutte le glorie di domani. E racconti che quella posizione, quella scultura, è che in fondo il corpo di Cucchi è il corpo del reato, è il corpo del creato, è un corpo del creato, è una scultura, è la pietà di Michelangelo, quella è la pietà di Michelangelo. Non ho bisogno di andare a vedere la pietà di Michelangelo, è quella lì, ma non do le colpe, non voglio dire... Le darà il garantismo, le darà lo Stato. Io sto parlando di un altro Stato. Il mio Stato glorioso, è glorioso poter essere io ad accarezzare il corpo di Cucchi. Ed è glorioso anche pensare che io devo costruire delle carceri dove quel poliziotto, se è colpevole, non venga torturato perché è colpevole, ma capisca e paghi la sua pena in maniera artistica, poetica, non etica, non morale, non legale. Quando si chiederà a un magistrato che commina certe pene di andare dentro un carcere a vedere che cos'è un carcere? Quando capiterà? È un tema artistico. Da quando io sono stato in un carcere e ho capito, verniciando prima di altri migliaia di volontari che non lo dicono, ma lo fanno, a differenza mia, che da parvenu dell'ultima ora ve lo racconto, ma è per arrivare a dire che la mia composizione cinematografica, io amo il cinema, ne ho fatto poco, forse ne farò, ma noi siamo sceneggiatori, ripeto, autori, protagonisti di un sacco di film. Basta andare dentro un carcere e vedere un carcere, e immaginarsi il water, il lavandino lì, il fornello davanti al water e uno che fa la doccia. Io da quando defeco in casa mia mi sono messo degli spaghetti davanti nel vetro del bagno e mi immagino qualcosa con una padella e con una pentola per pensare, in un bagno abbastanza più grande di una stanza, che cosa potrebbe succedere. Quella è una composizione artistica, sociale, non è solo sociale. Non è empatia, non me ne frega niente dell'empatia. Io devo conoscere con una sensorialità la gloria, la luce. Mi ha chiesto questo e lo chiede a ognuno di noi. E uno dice, ma questa è pazzia. Ma perché non è pazzia? Sentire certe radio, ciao. Da dove chiami? Sono un ascoltatore di Trapani. Sono un ascoltatore di Trapani. Noi ascoltiamo gli ascoltatori di Trapani. Non è pazzia questa? E la gente ride di questo. Ma non è... È un riso liberatorio. E quando è che comincia il riso occupatorio? Quando è il riso occupatorio? Ce ne occupiamo. Ciao, da dove parli? Ah, ti chiamo da Mosca. Ti sto parlando da Mosca. Mi parli da Mosca? Parlami da uomo. Da uomo. Nei telegiornali c'è della gente che parla da Mosca. Da Mosca. Ci sono dei leproni. Ma com'è possibile? E ci preoccupiamo dell'orsa, che è un problema. Ma sono i leproni e le mosche da salvare. Non è pazzia questa? Allora posso io con un altro metodo? È la fine del modo. È la fine del modo. Non è la fine del mondo. È finito un modo. È finito un modo. Se posso raccontarvi, uno che fa una lezione dovrebbe raccontare, racconto, era posto fa conto, il racconto una parte di tutto, non una relazione. Come si può fare una relazione e andare a casa? Intanto ho detto non si va più a casa. La relazione non la devi fare, la devi creare. Crea una relazione che non è comunicazione, della comunicazione non me ne frega niente. Merda! Merda! Ma lo sto proprio chiamando, merda! Come dire... Dammi una mano, tu. Chiedo alla merda di darmi una mano. Siamo ancora qua a parlare di comunicazione. I mezzi di comunicazione sono mezzi. Vorrei un intero. I mezzi. Ma perché non accade ciò che... Perché sono mezzi. Disse, ma tu sei incazzato? No, è l'incazzatura che è lei che ce l'ha con noi, è l'incazzatura che dice, oh ma allora! Cioè, è proprio l'incazzatura è diventato un soggetto che dice, ma fate qualcosa, fate presto, fate bene. Che sono ste fate? Le fate presto, le fate bene. Le fate così sono le peggiori perché dicono, oh, fate, le fate pure, si arrendono, fate pure. Le fate bene. Le fate schifo sono quelli che proprio hanno detto, ragazzi. Io l'ho raccontato in questo asilo. Poverino. No, ma senza carta igienica, senza banchi, quindi seduti, come dei, fate schifo, fate pure. E poi i leproni, sai, anche gli alberi con gli occhi. Ma voglio dire, non viene mica su come un calciatore il bimbo, sai? No, no. Cos'è meglio allora? Cos'è meglio? Che cos'è celebre? Facile, facile, facile. Questa è una battuta facile. Era per l'esempio, era per l'esempio, era per l'esempio. Che per poter arrivare a quella forma di pazzia, o pozzia anche, pozzia, nel senso, devi andare giù e tirar su delle secchiate di qualcosa dal fondo della terra. Chiamiamolo pozzia. È tutta roba che mi arriva, io non controllo più niente. Non si controllano gli sfinteri del pensieri. Diceva Ante Alighieri, Ante! Facci tutti facile parlare di Dante Alighieri, io voglio parlare di Ante Alighieri, cioè prima che nascesse Alighieri. Facile, Dante, Ante. Allora, dicevo, le battute non le voglio fare, non mi interessano, ne ho fatta una per capire. Adesso, ovviamente, il grande lavoro è quello di distrarci, ma troppo facile, ve l'hanno già spiegato. L'ha già spiegato Bauman, l'ha già spiegato tantissimi. Il problema adesso non è più capire solo com'è il fenomeno. Ecco, capire com'è il fenomeno, lo studioso sviscera. Ecco, una volta che hai sviscerato, capito il fenomeno, che comunque è importantissimo fare battute su l'hashtag, è importantissimo fare battute sul cinguettio, e allora il Presidente del Consiglio ne fa uno e l'altro, e se li scrivono tra di loro, e la battutina, e la foto, è importantissimo fare questo lavoro, perché comunque occupano, ci occupano, è un'occupazione, siamo in guerra in questo senso, c'è qualcuno che ci occupa, ci colonizzano. Ma questo, la mia domanda è questo, lo sapete, lo sappiamo benissimo. Allora, che cosa manca? Che cosa manca? Che cosa manca? Lo sappiamo che ci stanno spalmando di guano. Lo sappiamo. È guano, l'abbiamo. Ci spalmano e qualcuno ci dice, è guano. È guano. E te lo mettono anche nelle orecchie. Guano nelle orecchie. E poi arriva qualcuno che fa l'imitazione di uno tutto pieno di merda che balla, e tutti ridiamo di uno che merda, di merda che balla, e ridiamo insieme a lui, quelli che l'hanno tutto spalmato, c'è lui, ci siamo noi, è una e siamo a poi. Questo è un lavoro, uno dice, che te frega a te, se no io farei la parodia della parodia. Ma attenzione, se smettessimo di guardare quella satira, quella parodia, quell'imitazione, se cominciassimo a calare il sipario su chi comunque si diverte ancora per strappare un sorriso, strappare, cioè lo strappano, strappare un sorriso non vuol dire che lo fa, cioè dopo non sorridi più. Se noi capissimo che in quel momento dobbiamo non censurare, il corpo mi ha detto su e giù, non censurare. Ma una seduta e non pago niente, c'è chi per una seduta, e ma io ho provato a stare in piedi da uno psichiatra, comunque in ogni modo ti sdraio, non sono mai andato, no, troppo facile, dai, distingueteli, ogni tanto faccio qualcosa di trabocchetto perché uno dice, allora lì il lavoro è quello di dimenticare, ecco, non censurare, dimenticare, dimenticos, di da giorno, menti, falso, cos. Dimentica il giorno falso. Kos è un nome greco, tu greco, dai greci, Alcibiade e Irina, nella loro, quando si trovarono a Borgo Tossignano con le navi nell'Aurea del 400, quando ancora di loro si diceva t'avanze tante tali, cotarte folte soli, spada colei, ah, meo messere, io lo so tutta memoria, è inventata, guarda che sapere della roba inventata a memoria, ma la stessa memoria, la stessa memoria, oh tu, la stessa memoria, Achille, che due maroni Achille, ma hai rotto il cazzo Achille, senza offesa davvero, dice ma perché lo dici con le parolacce, vabbè lo dico in altro, ma perché il problema è la parolaccia in questo momento, ma come ve lo dobbiamo dire, ve l'ha detto il Papa, ve lo dicono con le parolacce, cosa c'è in mezzo, masticando una bicicletta ve lo dobbiamo dire, o pensa se masticando una bicicletta passano certi concetti, sarebbe... adesso in ogni modo io ho la voglia di provare, se mangiando una bicicletta riuscissi a far capire a Obama che fare la guerra a un paese per qualsiasi motivo è un genocidio, a parte di genocidio. Lui vuole evitare un genocidio, ma il genocidio è la parte geniale che è in noi, la parte gloriosa che è in noi, viene uccisa in un momento, quando decidi di fare guerra a un popolo, uccidi la parte poetica tua. Il primo genocidio lo fai su di te. È facile parlare, io non sono l'America, è facile parlare, io non sono uno che viene sgozzato dall'ISIS, è facile parlare, ma non è facile parlare. Non è facile parlare, perché un presidente avrebbe dovuto dire al massimo noi dichiariamo guerra con dolore, mi vergogno di dichiarare guerra, sono nudo, avrebbe dovuto parlare di l'inadeguatezza, avrebbe dovuto parlare e di non dire che il popolo americano non può e non deve avere... Ma i popoli non possono e non devono avere dei morti. I popoli, il cosmo, il mondo, non un popolo. Non esiste la patria in quel senso. La gloria non ha patria. La gloria non ha patria. Ogni bomba sulla testa di qualcuno non è l'orgoglio della propria patria. Non ci sono patrie. Il nostro orgoglio ferito, noi feriti, non è il nostro orgoglio occidentale, i feriti sono quelli costantemente, Gaza, Israele, Siria, Ucraina, quelli sono feriti nell'orgoglio. Allora io chiedo se noi possiamo votare con i nostri gesti, con la nostra gloria invisibile, con la nostra relazione, se possiamo votare con un referendum elettromagnetico, con un referendum stellare, con un referendum energetico di luce, per cominciare a emanare. Allora non è neanche un desiderio, non è un sogno, è un'aspirazione, no, è un'ispirazione. L'uomo che vuole essere famoso e glorioso aspira a diventare un presidente, aspira a diventare un presidente del Consiglio, aspira a diventare un sindaco, e l'ispirazione, aspirare, ma soprattutto ispirazione, ispirati, sii ispirato dalla morte, ma non quando muoiono, non quando piangi, non durante i film, non quando guardi i giornali. I giornali guardano noi guardiamo i giornali, ma i giornali guardano noi e dicono ma che cazzo leggete? I giornali dicono, ma ci leggete ancora? Io cerco di leggere spesso questa parte qui, che è la parte che so che c'è scritto qualcosa qua. È lì che ci stanno scrivendo, perché i ragazzi mancano poco, vengano giù. I ragazzi, i fratelli di luce, mancano poco, scrivono della roba qui. Ma chi è? Ma non ho mai visto nessuno. Al bar leggono tutti così, così. Ma è nessuno così. È scritto lì che cosa dobbiamo fare. Ma vallo a dire a un editore, vallo a dire alla casta, alla casta. La casta dice, è casta però ha un sacco di rapporti. E come mai? Allora, io non parlo di una casta, che è l'ineguatezza, che lei ha rapporti. Allora, il lavoro è arte lesa. Quello che non facciamo noi è arte lesa, mi costituisco arte lesa. E uno dice, un gioco di parole, certo. È il tema del dominio, dominio, non mi posso, il dominio, dice, hai dato il tuo dominio, ma il mio dominio non sono io, non è Alessandro Bergonzoni, non le cito neanche i nomi, non faccio battute, il dominio è non avere nome, non avere nome, anonimato, il problema non è l'analfabetismo, è l'alfabetismo, senza arrivare a parlare di Latouche, la decrescita, ma noi internamente abbiamo un abuso di alfabetismo, credendo che l'alfabeto sia fatto dall'alfabeto, che la musica sia fatta dalla musica, che la donna sia quella che vediamo, la donna indivisa non è una poliziotta, la donna indivisa è un esempio di persona tutta unita, indivisa, noi siamo indivisi, è una relazione costante, non è una tesi, io stasera non voglio parlare di tesi, tesi, teso, tirato. E questo tirare, il comico farebbe la battuta, tiri, vaffanculo, non voglio più battute sulla droga, non voglio più battute sulle pere, non voglio più battute su un ambito di dolore totale, violentissimo, col quale non puoi giocare neanche ironicamente. Dice, ma allora non ti diverti mai? Non mi diverto mai. Il tema della potenza e dell'energia sviluppata è un divertimento che va oltre. Va oltre, ma sì, ironico. Come faccio a essere ironico? Come faccio a essere ironico? Come faccio? Come faccio a subire? Subir, not subir. Diceva Shakespeare nel canto, dal canto suo. Lo diceva lui, perché solo Dante, quarto canto di Dante, ma dal canto di Shakespeare. Per mio conto, lo diceva, dal suo canto. Dice, ma qual è il tuo conto? Perché Shakespeare voleva sapere qual è il mio conto. Già il fatto che Shakespeare volesse sapere il mio conto. Dice, ma non siete della stessa epoca? Dai, non mi verrete a dire che voi dividete ancora in epoche. Ma sognate o non sognate voi la notte? Ci sono delle epoche lì. Quanti sogni facciamo nel 400? Con degli oggetti che nemmeno riconosciamo, abbiamo sette teste e siamo. E allora è la stessa capacità oltranzista, la stessa capacità, il prestigio. Come si fa ad avere prestigio? Ho prestigio perché sono capitano di un'industria, ho prestigio perché sono un attore, ho prestigio. Sono giochi di prestigio. Giochi di prestigio che possono riuscire o non riuscire, difatti la gente ci crede, è prestigio, il gioco di prestigio, sai, 77 filiali in tutto il mondo e 22 in un paese, adesso questo è un divertimento mio, però noi siamo opere, noi siamo l'opera, siamo opere, operati, operanti, ci sono domande? Bene, ci sono, siamo, no perché non si dica poi che non ho chiesto, ci sono opere. Gli dice, ma non lasci lo spazio, non lascia lo spazio. Ogni parola c'è un frammento. Quando avete sentito da frammento a quando? C'era uno spazio. O vi infilate lì o la domanda. Stiamo a perdere tempo. Allora, operare. Siamo opere, operanti. Noi siamo cavie. Dobbiamo operare. Solo che operiamo sotto anestesia. Operiamo sotto anestesia. Ce lo dicono i vari Don Ciotti, ce lo dicono i vari Don Gallo. Ce lo dicono tutti. Siamo sotto anestesia. Chi è che si farebbe operare da un chirurgo sotto anestesia? Sei già lì sul lettino, già teso. Arriva un chirurgo e dice, vorrei operare la sotto anestesia. Che garanzia ti dà un chirurgo sotto anestesia? Ma ci abbiamo mai pensato? Chi è che si farebbe operare? Comincia, poi lo vedi che pian pianino. Mentre... Ah, quello non ce lo faremmo fare allora. Dice, ma io sono anestetizzato dal busto in giù. È la stessa cosa, operi bene e poi va giù a sacco. Dice, ci sono adesso delle anestesie parziali, mi sono anestesizzato dalla fronte in giù, però sì, sai che roba, non è che il capello vivace mi dia garanzia. Non è primario il capello, non è primario. Non è neanche primario, cioè questo ci opera, anestetizzato, non è primario. Vi rendete conto? Noi operiamo in questa condizione, Dice, ma perché ti incazzi? Non è mica un comizio, non è mica una lezio. Ma volete ancora fare distinguo? Ma non c'è più distinguo, non c'è più. Allora uno dice, la donna si dà, il bambino può darsi, l'uomo sedato. Ma perché l'uomo sedato? Sedato, completamente sedato. E quando si risveglia dalla sedazione, magari il chirurgo gli dice: non c'è più niente da fare. Non c'è più niente da fare. Dice: ho fatto i controlli, non c'è più niente da fare. Cioè, io ho fatto tutto sto can-can. Perché poi il medico, quando non era anestetizzato, questo l'ho raccontato all'asilo, Così i bambini hanno un po' l'idea della sala chirurgica, quindi can-can, addormentati. Vedrai che non fa mica i presentatori di quiz quando diventano grandi. Hanno altre idee, pensando a un chirurgo in sala operatoria in calze che fa il can-can, guardato a vista da un albero con gli occhi. Te vedrai che cambia la generazione futura. A voglia. Dai che non dicono mica più. Allora uno diceva: non c'è più nulla da fare, c'è tutto da fare, c'è tutto da fare, non c'è più nulla da fare. Chi me lo dice? Il medico di base. Chi me lo dice? Il medico di base. Io voglio parlare con il medico d'altezza. A me interessa il medico d'altezza, non il medico di base. È l'altezza, alla base c'è l'altezza catetica, noi siamo altro, c'è una forma. Prima degli angoli i lati vivevano liberi, ma vi rendete conto? Vi rendete conto? Aristotele, Menelao, Agrippa, l'altro, quello che ha inventato la teoria, una teoria, una scuola guida, lui la teoria della relatività, lui girava bene la teoria, ma quando poi vieni in macchina ti voglio vedere nella pratica della relatività, dimostrami la teoria della relatività mentre guidi, vedrai che ti passa. Allora, cosa che ho spiegato ai ragazzi dell'asilo quando mi hanno detto: ma la teoria della relatività, perché un ragazzo, c'era un ragazzo, mi sono stupito perché in questo asilo c'era un ragazzo che mi ha detto: secondo voi sta roba io la posso scrivere io o pensare io? Sta arrivando della roba, ma è chiaro, devo avere la pazienza di aspettare mentre parlo con voi, riceverla e dirvela. Adesso sono sempre più veloce, però questo ragazzo della relatività mi ha appunto detto, gli altri bambini intanto stavano tirandosi calci e vomitando, si fa sempre, è un asilo, senza banchi, senza carta igienica, qualcosina dovrai poi fare. E pensare che gente ha tutte le carte, quando vai in un ristorante vorrei pagare, abbiamo tutte le carte, allora dico: se andiamo in quel ristorante e cominciamo a prendere le carte per i bambini dell'asilo, il ragazzo con una carta poi il conto, anche lui mi ha chiesto il conto come Shakespeare, mi ha chiesto scusa, d'altro canto, e dico: ma parli del canto di Shakespeare o del canto di Dante? E lui mi dice: Dante prima, quindi ante Alighieri. Comunque questo mi serve solo per dire che i posti di scienza devono venire su, il posto di scienza deve salire e dirci cosa ha fatto, cosa ha visto. Dobbiamo fare lo straordinario, è una forma di gloria. Fare lo straordinario non vuol dire fare lo stesso lavoro 6 ore in più, quello non è fare lo straordinario, quello è lavorare un po' di più. Fare lo straordinario vuol dire che finito di fare le tue 8 ore di chirurgo, cominci a fare il mestiere di modella, quello è fare, sei straordinario. E dopo la modella fai il becchino e dopo il becchino fai il macellaio, quello è il lavoro straordinario. È straordinario, dopo aver operato, a lui viene poi meglio fare la modella perché è quello... Quindi, perché l'ho detto? Perché il lavoro... Allora, il problema non è venire a capo, è cominciare a fare i mestieri degli altri, è cominciare a pensare a una gloria diversa. A non fare più una cosa alla volta, non si può più fare una cosa alla volta. Tre di quell'asilo ci sono stasera, stanchi, distrutti, perché stamattina sono stato da loro e si beccano anche la fase serale totale. Fare il mestiere degli altri vuol dire cominciare a fare più cose insieme contemporaneamente. Dice: ma io non posso mica essere, io sono già un maestro, non posso mica, io sono un attore, non posso mica, io sono un fornaio, non posso mica. Ma chi è sto mica? Mica, non posso mica. fare un altro, però noi non facciamo tutte le cose contemporaneamente, non le facciamo tutte contemporaneamente. Mentre io faccio questo gesto, non sto guardando, mentre guardo non muovo la gamba destra, mentre muovo la gamba destra il cuore non pompa, mentre il cuore pompa, allora le facciamo tutte contemporaneamente. Perché io non posso fare più lavori contemporaneamente? Dici, oggi guido, poi vedrò. È meglio che vedi subito. Vedi che mentre guidiamo facciamo tante cose. Teoria della relatività in macchina. Adesso questo è un caso eccezionale. Facciamo gite in macchina sul cruscotto, sui sedili. Riusciamo a fare delle cose bellissime. Ma il lavoro di poter fare altri lavori, mica posso, mica riesco, non sono in grado, non sono in grado. Passa di grado, passa di grado. Vuoi far carriera? Fai carriera. Hai fatto il militare in artiglierie, hai fatto il bambino in cartolerie, hai fatto il ferito in astanterie, vuoi fare l'uomo in vigliaccheria. Comincia! Comincia un altro lavoro, comincia un altro mestiere. Non è gloria questa, non è eroismo, non è supereroismo. È un altro tipo di motore, è un altro tipo di vita, è un altro tipo di lavoro, è un altro tipo che ci sta, ce l'abbiamo dentro, ma non ce la faccio. Ce la fai, ce la fai, ce la fai, ce la fai. Hai mai provato? È come io correvo in automobile tempo fa, e ci sono anche dei piloti, miei colleghi qui, e cercavo sempre io di arrivare in fondo alla curva il più veloce possibile, e poi frenavo, la macchina si metteva di traverso perché secondo me non ci stava, e mi dicevano stacca prima, poi entra, stacca più tardi, ma entra più composto, vai al punto di corda, è un tema di geometria, cioè studiati una geometria e vedrai che farai da un lato meno fatica, la macchina non si scomporrà, tu uscirai più veloce, prenditi un punto di riferimento, arrivi in fondo, io arrivavo in fondo ai rettilini, c'era un passerino, un passerotto, dico mi prendevo quel punto di riferimento, rifacevo il giro, non c'era più, andavo dritto, poi capivo, ma avevo capito una cosa, mi ha fatto capire i gesti, quei gesti, una macchina, un qualcosa di anche di privilegiato, di assurdo, mi ha fatto capire che certe volte ci sta, la nostra macchina ci sta. Io ho imparato dalle corse che le macchine ci stanno, se tu capisci come devi gestire la potenza, capisci che puoi arrivare a 280 in fondo a un rettilineo, e a seconda di come freni c'è un modo in cui la macchina si punta, c'è una posizione in cui tu quel secondo è complicato, ma ci sta, un'altra vita ci sta, un altro tipo di gloria ci sta dentro di noi, abbiamo autodromi perfettamente percorribili, Dio ha un piano. Lo vogliamo suonare, sì o no? Questo dicono i credenti. Bloccate l'applauso, questo dicono i credenti. Dio, i darwiniani dicono, credenti, non credenti, non ce la faccio più. Non riesco più. Dice, farò un discorso laico. Da un punto di vista laico, la guerra in Siria, però da un punto di vista religioso, da un punto di vista... Davanti a Dio gli uomini sono tutti uguali. Ma di fianco, questo mi chiedo io, di fianco. C'è un punto cieco, perché è come certe macchine. Ci sono certi specchietti che guardi, ma se non giri anche la testa, non vedi. Allora noi dobbiamo girare la testa, non basta lo specchietto per allodole, internet, i giornali, la nostra vita, non basta, non riesce a farci riflettere e vedere cosa c'è dentro. I vedenti, non vedenti, i credenti, non credenti, non me ne frega niente. Io voglio parlare dei creduti e dei non creduti. Chi ti credi di essere? Chi credi di essere? Chi credi di non essere? Perché non lo diventi? I vedenti e i non vedenti, i veduti e non veduti. I veduti e non veduti, io faccio sempre questo esempio. Io sto guidando la macchina, vedente, un cinghiale, un riccio, un cinghiale riccio, un caso esageratissimo. Mi attraversa la strada e io vedente cosa faccio? Sterzo per evitarlo e sono un vedente. Sta arrivando però un motociclista che io non vedo e mi sta sorpassando. lui è un vedente, io sono un vedente, però non lo vedo, quindi sono un vedente non vedente. Sento un colpo nella carrozzeria, io sono anche udente, quindi sono vedente, non vedente, udente. E lui è un vedente, non veduto, da me. Apro la portiera, lo vedo per terra e dico, ma dove eri? Non t'ho visto, dico, ma non m'hai visto, ero qui. Ma non ci credo, dico io. Quindi lui è un vedente, non veduto, non creduto. Io sono un vedente, non vedente, udente, non credente, perché non credo. Capisci che è molto più complicato, è molto più complicato che diviso tra credenti. Non vi parlo poi del cinghiale riccio seduto sul marciapiede che dice non ci posso credere. Allora capisci la potenza? Chi sono i credenti non credenti, i vedenti non vedenti, i non udenti? Poi dici sono credenti ma osservante, perché infatti ci sono i testimoni, dice, ma voi avete visto qualcosa dell'incidente? Che sono gli osservanti, solo che ce ne sono pochi perché sono praticanti, sono tutti in chiesa, osservante, praticante in chiesa, quindi o ci sono dei giochi di specchi nella chiesa che vedi l'incidente, se no sei un osservante praticante che non vede niente, non vedente, è lì che diventa problema. Il motociclista sembra poi che dovesse sposarsi, andava in chiesa, poveretto. Quindi è un vedente, non creduto, ma credente, perché se va in chiesa a sposarsi è un credente. Questo dicono i benpensanti. I benpensanti dividono i credenti e i non credenti. I benpensanti. I malpensanti, che stanno arrivando dall'aeroporto, che cosa ridete? Fermate quell'applauso, nessuna risata liberatoria, occupatela. I malpensanti che stanno arrivando, insomma c'è un collegamento tra credenti e non credenti, c'è una navetta, ecco, c'è una navetta che collega credenti e non credenti. Io è un po' che vorrei fare questo discorso, non solo negli asili. E mi sono anche stufato, i ragazzi e poi non ne possono, ce n'è quello alto poi non ne vedo, col conto in calze che balla il cancan. Io vorrei farlo al Vaticano questo discorso, per spiegare credenti e non credenti, proprio per spiegare che c'è un punto, c'è una funzione che è il celebrante che sta celebrando, e difatti i ben pensanti sono malvisti. Sono mal visti. I credenti sono ben visti. Io non so, il motociclista è mal visto, per esempio, perché proprio non l'ha visto. Pensa se fosse anche ben visto, cioè, sono ben visto? Cioè, mi hai messo sotto, quindi allora l'hai scelto. Allora essere credente ben visto dal non credente è mal visto. I malpensanti stanno tornando all'aeroporto, hanno girato la navetta, hanno detto, buona. I passanti stanno andando via, si chiamano passanti perché cinghiale riccio è partito da un pezzo, poverino. Volenti o nolenti? Ecco, i nolenti, ecco, forse l'incidente è avvenuto perché io ero nolento. I volenti sono proprio quelli che... pensa a un volente ben pensante... volente, ben pensante, ben visto, che ben vede, quindi è volente, ben pensante. I nolenti che dovrebbero portare gli occhiali ma non li hanno, nolenti, è sbagliato, ecco perché poi mi hai messo sotto, ma intanto è già in chiesa col matrimonio, diventano poi indecenti, inguardabili, gli inguardabili diventano exani, è un exano, gli inguardabili sono... poi sono feriti, un ferito che cos'è? Un exano. Gli exani, c'è un caso di ferito non volente, credente, non creduto, texano, ma vedete come si apre il raggio di sole Grazie. Grazie. Grazie Carpi. Grazie. Grazie al Festival della Filosofia. Grazie a Lina De Guateta. Spero sia successo qualcosa, grazie. All'ombra del palmo di mano, dalla A alla G, inizi e fini della gloria. Lezio Magistralis di Alessandro Bergonzoni sul tema La gloria. Con Alessandro Di Somma del Teatro Studio 1 per parlare di Condivisa, teatro in movimento lungo l'acquedotto. La stagione Condivisa di Teatro Studio 1 e Teatro Biblioteca Quarticciolo dal 15 ottobre al 18 dicembre 2020. Alessandro, ben trovato. Grazie Federico, buonasera a tutti. Raccontaci un po'. È un percorso che stiamo facendo insieme al Teatro Quarticciolo nel quinto municipio. Teatro Quarticciolo è un po' il teatro istituzionale del municipio e noi come Teatro Studio 1 abbiamo collaborato spesso con la sua direzione artistica e con grande piacere, sinceramente, hanno ispirato diverse produzioni nostre, ci hanno sempre supportato e abbiamo fatto lo stesso con loro. Quest'anno abbiamo voluto un po' suggellare questo rapporto grazie a questa, diciamo, stagione condivisa un po' per sostenerci in questo momento molto difficile del teatro in generale. Quindi verremo ospitati dal Teatro Quarticciolo con 4 nostre produzioni come simbolo di collaborazione, sperando poi in futuro di rinnovarla e di farla sempre più stretta. Quindi avremo 4 spettacoli che andranno nella stagione del Teatro Quarticciolo e poi noi ci proponiamo di ospitare anche diversi lavori del Quarticciolo nei nuovi spazi che stiamo creando a partire dal 2021. Per ora invece siamo con 4 compagnie un po' rappresentative del nostro spazio a Torpignattara che cammineranno lungo l'acquedotto, arriveranno fino al Teatro Quarticciolo per esibirsi, e quindi sarà un bel momento di festa ed è sempre bello per le compagnie che partono da un teatro piccolo come il nostro e arrivare a uno spazio di un teatro così importante, sperando di crescere per di più, che poi la nostra mission è quella di dare alle compagnie un po' un trampolino per arrivare, spero, sempre più in alto, insomma. 4 lavori per 4 compagnie con le quali immagino abbiate condiviso un percorso. Sì, assolutamente. Apriamo con la compagnia di Tre Barba, con gli spettacoli sull'opera lirica, che un po' è stata una sorpresa incredibile negli ultimi 3 anni, visto che Lorenzo Deliberato, Lorenzo Garufo e Alessio Esposito hanno formato questo trio di cantanti lirici senza strumenti, fanno le arie a cappella, hanno trasformato le storie di Così fan tutte, Rigoletto e Brevi Siviglia, in delle opere anche tragicomiche, quindi si stanno creando sia le arie famose delle opere, più in sezione di musica contemporanea, di trap, rap, questo proprio per avvicinare le persone alla lirica, che sembra sempre un argomento così per snob, per ricchi, quando invece c'è all'interno un divertimento, spettacolo, movimento, insomma è tutt'altro che noioso. E loro lo fanno una grande maestria e lo faranno il 15, il 16 e il 17 ottobre con le 3 opere proprio, quindi Così fa tutte, Rigoletto e Il barbiere di Siviglia, e sono stati 3 successi nel nostro teatro e speriamo che ce l'ha altrettanto al Teatro Quarticciolo. Inoltre con questo progetto abbiamo vinto un bando della Regione Lazio, quindi vuol dire proprio che è un progetto su cui possiamo puntare. Siamo molto felici perché è un teatro per tutte le fasce d'età e tutti i ceti, diciamo, quindi dai 4 ai 99 anni, per tutte le persone che vogliono divertirsi un'oretta insieme a noi con la lirica. Il secondo spettacolo che invece proponiamo è Togliatti Mon Amour, che è un progetto molto interessante fatto da Carlotta Piraino e Il Furgonaro, che sarebbe proprio uno spettacolo scritto con un cliente delle prostitute di via Palmiro Togliatti, che è un capo blogger di un sito di recensione sulle prostitute, quindi entriamo in un mondo un po' particolare in cui, grazie alla bravura di Carlotta Piraino, portiamo proprio in scena un cliente che spiega le sue ragioni in forma proprio teatrale, quindi è uno spettacolo molto interessante che parla di un argomento un po' sconosciuto, vedere il punto di vista del cliente. In Teatro Quarticciolo ce l'ha rivisto perché veramente è anche un argomento molto attuale, perché è anche molto presente anche alle nostre zone del quartiere. La prostituzione nel quinto municipio è un fenomeno veramente molto, molto importante, insomma, è anche molto visibile sia per i cittadini e per le istituzioni. È un problema che a teatro è importante affrontare, secondo noi. E poi abbiamo invece Mi manca Van Gogh di Francesca Strei. Certo, questo è un argomento molto attuale, che è quello dello shaming su internet riguardo a video pornografici sottratti alle persone, alla loro privacy, che vanno a finire in rete e provocano le reazioni peggiori. Quindi insomma, si parla di una ragazza che, in cui un video con il suo fidanzato finisce in rete, e quindi insomma è un argomento molto attuale, visto che ci sono stati dei casi di suicidio anche di persone che hanno subito questo tipo di attacchi informati. Poi è stato l'argomento molto delicato, in maniera molto anche leggero, ecco, è molto interessante. Per ultimo chiediamo con Dan Egidio, chiediamo proprio nella comicità, visto che il gruppo Dan Egidio lo ospitiamo da quasi 10 anni nei nostri spazi, con il loro ultimo lavoro che è Luisa, Uno sguardo oltre Alpe, che è una telenovela teatrale iper divertente, veramente comica. Per noi sono veramente una delle compagnie che più amiamo nel panorama romano, e stanno facendo tanta strada, e li troveremo anche col gruppo Sgombro nella programmazione del Teatro di Roma. Quindi tutte compagnie che sono partite da Torpignattara e stanno andando verso le più importanti. Noi speriamo proprio di tirargli sempre il volano per farli arrivare e poi farli tornare anche da noi, no? Sempre più affermati. Come si sta muovendo il Teatro Studio 1 in questa situazione? Gli spazi del Teatro Studio 1 sono aperti solo per laboratori e workshop e sala prove. E invece stiamo allestendo, costruendo un nuovo spazio che si chiama Fortezza Est, che dovremo aprire, speriamo, il 1° novembre, e che sarà il nuovo teatro di Torpignattara. Quindi è uno spazio più grande dove potremo ospitare più spettatori e dove il pubblico potrà vedere gli spettacoli che sono saltati la scorsa stagione, più altre novità. Partiremo dalla prima settimana di novembre e faremo un'inaugurazione lunga una settimana, nel senso che siccome non possiamo fare assembramenti, non possiamo fare una festa, faremo una settimana di inaugurazione in cui chiunque potrà prendere un appuntamento, venirci a trovare, bere un bicchiere di vino, passare con noi 10 minuti, prendere l'appuntamento. Quindi stiamo, ti faccio questo piccolo spoiler, visto che la stiamo organizzando in questi giorni. Il nostro nuovo teatro sarà Fortezza Est, che avrà una libreria indipendente, e il Teatro Studio 1 rimarrà lo Studio 1 di workshop e prove e residenze. Cercheremo di farlo sopravvivere così, sperando di riuscirci, insomma, sia con la proprietà che gestisce le mura del nostro teatro, e sia sperando che cambino le cose dal punto di vista sanitario e legislativo, e speriamo di poterlo riaprire anche al pubblico. Avremo modo sicuramente di riparlarne. Condivisa, Teatri in Movimento lungo l'Acquedotto, la stagione condivisa di Teatro Studio 1 e Teatro Biblioteca Quarticciolo, dal 15 ottobre al 18 dicembre 2020. Un saluto e un ringraziamento ad Alessandro Di Somma. Un abbraccio, in bocca, grazie, al lupo, grazie. E a presto. Grazie Federico, e grazie a tutti quanti. Con Leonardo Manzan, coautore dello spettacolo Glory Wall, a Roma, Teatro Vascello, dal 13 al 18 ottobre 2020. Leonardo, ben trovato. Bene, grazie, grazie. Come lo presenteresti a chi ci ascolta? È un esperimento, uno spettacolo sulla censura che mi è stato commissionato dalla Biennale di Venezia. E io ho voluto giocare sul paradosso di dover fare uno spettacolo sulla censura sotto commissione, che mi sembra un malinteso bello grosso, perché la censura, noi diciamo nello spettacolo, è il contrario del silenzio, cioè una cosa che se nomini appare, e quindi se la censura sapesse che stiamo facendo uno spettacolo su di lei, certo ci censurerebbe. Quindi lo spettacolo gioca un po' con questa difficoltà di un autore alle prese con uno spettacolo sulla censura commissionato. Come hai deciso la messa in scena? Sono state varie le fasi che ci hanno portato a prendere la decisione di mettere in scena un muro, perché ci sarà un muro in scena che impedisce agli spettatori la vista di ciò che accade sul palco. È stato questo muro il risultato di varie tappe. All'inizio eravamo entusiasti di lavorare su un tema come la censura, perché ci sembrava un tema scomodo, sotto si potevano dire moltissime cose. Subito dopo ci siamo resi conto dell'inghippo, appunto, dato dal fatto che non era un tema che avevamo scelto, ma che eravamo stati invitati trattarlo, e che quindi ci sembrava impossibile farlo, finché non ci siamo resi conto che la censura volevamo in realtà che diventasse più che un tema, un obiettivo. Mi hanno detto: se è questo che dobbiamo trattare nello spettacolo, provochiamola la censura, non ne parliamo. Così si è costituito una sorta di spettacolo degli eccessi inizialmente, in cui cercavamo di fare le cose più atroci che ci venissero in mente, ci siamo resi conto che non riuscivamo a superare la domanda per noi più censoria di tutte, che è: che senso ha tutto questo? Quando ci siamo trovati di fronte a questa autocensura, abbiamo deciso allora di metterla in scena. Autocensuriamoci per poter dire quello che veramente vogliamo dire. Nascondiamoci dietro un muro, paradossalmente, per uscire allo scoperto. Lo spettacolo ha debuttato alla Biennale di Venezia, al Festival Teatro 2020, e ha ricevuto il premio in Biennale di miglior spettacolo. È stato assegnato da una giuria internazionale di critici che ha valutato fosse il miglior spettacolo presentato alla Biennale, che ha scritto una lunga motivazione come riconoscimento. È stato prodotto dal Teatro Vascello e, felici anche di questo premio, adesso lo portiamo a casa, diciamo, e lo facciamo debuttare qui a Roma, dove è nato. Questo titolo? È un gioco di parole abbastanza scontato con la pratica del glory hole, che è una pratica sessuale che prevede appunto che ci sia il buco in una parete per poter praticare sesso con degli sconosciuti in maniera anonima. Noi giochiamo su questo titolo perché in scena abbiamo un muro appunto su cui vengono praticati dei fori che rimandano un po' a questa idea dell'anonimato e a questa pratica sessuale. Muro della gloria l'abbiamo chiamato, e questo si capirà soprattutto nel finale dello spettacolo perché. Hai avuto dei riferimenti artistici nell'idea della messa in scena? Sì, dei riferimenti artistici nel senso che dal momento che la messa in scena è fondamentalmente il nostro percorso piuttosto labirintico e complesso di costruire uno spettacolo sulla censura, è ovvio che ci siamo scontrati nello studio con dei grandi personaggi della storia censurati. Pasolini, De Sade e Giordano Bruno, per esempio, entrano all'interno dello spettacolo e quello che ne abbiamo tirato fuori è un confronto in cui ne usciamo decisamente sconfitti. Come al solito, quando si guarda i grandi padri, uno si sente sempre in soggezione. Allora, nel momento in cui ci siamo detti cosa possiamo fare noi per essere censurati, ci siamo anche risposti ma cosa abbiamo da aggiungere noi a quelli che prima di noi hanno fatto il loro e l'hanno fatto al prezzo più alto da pagare. Tutti e tre hanno, insomma, hanno rimesso la vita poi con la loro vita. Quindi entrano nello spettacolo ed entrano proprio nel ruolo di farci prendere coscienza che noi non siamo nessuno e che il fatto stesso che stiamo lavorando su uno spettacolo sulla censura perché ci è stato chiesto significa che in fondo non spaventiamo nessuno, non siamo innocui, non possiamo far male a nessuno e questa cosa insieme ci dispiace, insieme sembrava giusto comunque ammetterla per non peccare di presunzione. Rappresenta un problema per voi oggi la censura? No, direi assolutamente di no, direi assolutamente di no. E questo ci tengo proprio a dirlo, anzi, tutt'altro, questo anche lo dico nello spettacolo, a me piacerebbe ci fosse la censura, sarebbe la misura, il metro per sentirmi un attimo più importante, più pericoloso. Cioè l'assunto fondamentale è questo, la censura si occupa di censurare, di negare, di nascondere qualcosa che è largamente visibile e che può mettere in crisi un ordine pubblico costituito. Metterlo in disordine. Io non credo, con profondo dispiacere, che il teatro abbia questo potere. Non ce l'ha. Il teatro è l'ultima ruota del carro del mondo. Se lo è, per colpa nostra, nel senso che non facciamo nulla che possa arrivare neanche soltanto all'attenzione, al desiderio della censura. E quindi trattare questo tema mi sembra veramente un paradosso enorme. Credere che abbiamo il potere di dire cose scomode quando i nostri ascoltatori si contano sulle dita di una mano. Mi sembra veramente presuntuoso, arrogante. In altri campi artistici, penso soprattutto per esempio alla televisione o al cinema, esiste però un tipo di autocensura preventiva? Sì, questo è vero, certo, ci sono delle cose che non si possono dire, delle piccole correzioni. Siamo d'accordo, non lo so se devo pensare alla censura, non è il tipo di censura a cui faccio riferimento io. Comunque questa cosa in altri campi esiste, ma in teatro direi di no. Sì. Ma anche lì, poi ci sono quelli che sono stati censurati, non lo metto in dubbio oggi, però mi sembrano sempre piccole storie comunali, ecco, assessori, amministratori di condominio, diciamo, dello spettacolo, insomma, per carità, senza nulla voler togliere, però non mi sembra che non siamo liberi di dire quello che vogliamo, anzi mi sembra che lo siamo fin troppo, nel senso che questa libertà poi non ci fa capire cosa vogliamo dire, perché non niente effettivamente di cui discutere. Glory Wall a Roma al Teatro Vascello dal 13 al 18 ottobre 2020. Un saluto e un ringraziamento al coautore Leonardo Manzano. Grazie, grazie a voi. Un abbraccio, in bocca al lupo e a risentirci presto. A presto. con Giacomo Bisordi, regista dello spettacolo Uomo Senza Meta, al Teatro Argentina a Roma dal 17 al 25 ottobre 2020. Giacomo, ben trovato. Buonasera a tutti, ciao. Ci racconti di questo progetto? Questo è un progetto che è nato per il Teatro di Roma, per il Teatro Argentina, nell'estate 2020, quando subito dopo il tentativo di riapertura dei teatri mi è stato chiesto di pensare a un progetto appunto per il Parco dell'Argentina e su mia scelta ho proposto un testo di un drammaturgo norvegese che si sta facendo strada in Italia, che è Arne Lindgren, che è uno dei massimi drammaturghi norvegesi, molto rappresentato in Francia, e ho scelto di mettere in scena un suo testo che si chiama Uomo senza testa, che è una sostanzialmente una sorta di storia, una favola, la definisco una favola politica, dove una storia di una famiglia sostanzialmente si intreccia a una vicenda di un'intera comunità. Al centro di questa storia c'è un uomo, un grande imprenditore di nome Pietro, che appunto come il Pietro evangelico, che appunto che costruisce sulla prima pietra una nuova chiesa, decide di mollare tutte le sue imprese di successo per fondare una nuova città. E solo che 30 anni dopo che questa città è stata fondata, è diventata meravigliosa, incredibile, un sogno realizzato, quest'uomo si trova su un letto d'ospedale in fin di vita con accanto a lui una serie di familiari, un fratello, una ex moglie e una figlia che non aveva mai visto fino a quel momento. E scopriremo andando avanti che quest'uomo, le persone che sono attorno a lui sembrano non avere memoria del passato, sembrano essere stranamente accondiscendenti di tutto quello che Pietro chiama e desidera, e veniamo piano piano a scoprire che la realtà che Pietro si è costruito in tutta un'intera vita era una realtà fatta di figuranti, di persone che avevano accettato di essere pagate per interpretare dei ruoli che Pietro chiedeva loro. Quindi la ex moglie non è una ex moglie, la figlia non è una figlia, il fratello non è un fratello, ma sono tutte persone che hanno deciso di vendere le loro vite per rispondere ai desideri di quest'uomo. Tuttavia, a un certo punto, la drammaturgia ci mette davanti a un fatto: quest'uomo muore, e quindi ecco che queste persone che per un'intera vita hanno deciso di servire qualcun altro si trovano improvvisamente senza un senso. E come sempre succede in teatro, diciamo nella drammaturgia da Eschilo, poi sono problemi. Cosa hai apprezzato di questo testo? Anzitutto la scrittura, perché è una scrittura minimalista, non ci sono monologhi, non ci sono battute lunghe, ma i personaggi parlano veramente per pochissime parole. Questa è una cosa che all'inizio può dare il senso di una profonda aridità dei personaggi e delle situazioni, quando in realtà poi la si va a mettere in scena si dimostra essere estremamente ricca, estremamente precisa ed estremamente dettagliata. Devo dire, proprio questo aspetto, la capacità di sintesi, la capacità di costruire comunque dei personaggi, delle situazioni tridimensionali che comunque fossero al tempo stesso estremamente realistiche ma anche profondamente simboliche, penso la cosa che distinto mi ha attratto di più di questo testo qui, di questo autore Arne Lindgren, che è davvero formidabile. E poi vabbè, al di là di quello c'è proprio il tema, nel senso che è un testo, questo qui, del 2005, che in qualche modo anche a 15 anni di distanza riesce a dare uno spaccato abbastanza estremo di come il sistema economico in cui noi viviamo è un sistema che porta sostanzialmente a una deformazione profonda dei sistemi e degli affetti, delle relazioni interpersonali e proprio anche del grado di condivisione che c'è tra una persona e un'altra. Rispetto al testo originario, su cosa hai voluto concentrarti? Fondamentalmente, come sempre succede nel momento in cui metti in scena un testo, è un punto di partenza. Quindi, anzitutto, con l'intero cast abbiamo fatto un lavoro di revisione di quella che è la traduzione. C'era già un'eccellente traduzione che però nel momento in cui l'andavamo a mettere in scena in qualche modo andava verificata. Però se c'è un elemento su cui in qualche modo ci siamo concentrati è sull'aspetto del tempo, nel senso che questa storia è una storia che, nonostante lo spettacolo duri 1 ora e 20, attraversa 30 anni, e il tempo è proprio l'elemento in cui si nasconde proprio il modo in cui delle persone, in cui i personaggi scelgono di rinunciare alle proprie vite per servire quella di un altro. E questo aspetto è quello che ha un po' toccato tutti gli elementi del cast, perché in qualche modo l'isolamento che questi personaggi affrontano, questa sorta di rinuncia emotiva anche del protagonista Pietro, è in qualche modo qualcosa che ricorda da vicino un po' certi tipi di le peggiori sensazioni che in qualche modo ci caratterizzano anche in questo momento storico, in cui sembra molto spesso di trovarsi ancora più soli del solito quando si è in mezzo a tanta gente come meritava uno. E quindi è un po' questa, secondo me, la cosa su cui più o meno abbiamo sbatacchiato, proprio su cercare di capire la solitudine interpretata nel tempo dei personaggi di questa storia. Uomo senza meta, a Roma, al Teatro Argentina, dal 17 al 25 ottobre 2020. Un saluto e un ringraziamento al regista Giacomo Bisordi. Un abbraccio in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, grazie a voi. Ciao, ciao, ciao. Con Marco Schöllner del collettivo Fanzilla per parlare di Fanzilla Expo 2020 dal 15 ottobre al 19 novembre. Rome Pandemic Photozine Edition. Marco, ben trovato. Ben trovati a voi. Ci racconti intanto della realtà Fanzilla per chi non la conoscesse. Fanzilla è il primo festival italiano interamente dedicato all'autoedizione fotografica e alle fotozine, un'esperienza diciamo editoriale che si sta diffondendo in questi ultimi anni e che riguarda i fotografi alle prese con l'edizione, ovvero sono degli autori e anche delle etichette, quindi persone che decidono di pubblicare altri fotografi rispetto ai loro lavori, si concentrano praticamente su dei prodotti fotografici editoriali completamente indipendenti che vengono sviluppati in maniera artigianale utilizzando delle reti che sono appunto quelle non ufficiali, non quelle della fotografia ufficiale. Nel tempo sono create delle occasioni anche espositive in giro del mondo, in Italia. La prima esperienza espositiva di fotozine è stata appunto Fanzilla. Per tanti anni le fanzine fotografiche, le fotozine, tutto il mondo dell'editoria indipendente fotografica è stata ospitata in festival ufficiali di fotografia, sempre rimanendo un po' ai margini. Infatti noi i primi tempi ci consideravamo un po' dei pesci fuor d'acqua, un po' ovunque, no? Sempre relegati in una parte piuttosto marginale di festival che si occupano di questo tipo di prodotti. Fanzilla ha voluto rendere centrale invece questo strumento importante editoriale che sta crescendo e per dargli appunto quella rilevanza che merita e che già nel resto diciamo della scena internazionale ha già acquisito un ruolo diciamo abbastanza importante. Quest'anno ci sarà un'edizione particolare? Sì, quest'anno in seguito al problema Covid-19 abbiamo dovuto in un certo senso ripensare l'esperienza Fanzilla in maniera tale che potesse essere più adattabile a questa situazione. Fanzilla nella sua struttura ha centralmente il rapporto diretto tra i produttori, tra gli editori fotografici e il pubblico. Normalmente Fanzilla ha una struttura fieristica, le persone vengono, hanno uno spazio a disposizione, espongono il loro materiale, incontrano altri fanzinari, hanno la possibilità di cambiare il proprio materiale e quindi creare quella rete di cui ti parlavo prima. Quest'anno invece, non potendo dare la giusta centralità a questo ruolo di incontro, di scambio vero e proprio di Fanzilla, abbiamo creato Fanzilla Expo, che è un'evoluzione esclusivamente, speriamo, dell'edizione 2020, che è quella appunto di immaginare una grandissima esposizione di Fanzilla in una serie di spazi, librerie, spazi autogestivi in giro da Roma. Quindi ogni luogo che abbiamo scelto si trasforma in un Fanzilla Corner in cui i visitatori avranno la possibilità di visionare questo materiale che proviene, come avviene solitamente per Fanzilla, da tutte le parti del mondo. Ed è una nuova esperienza per noi, però lo sottolineiamo sempre, speriamo che funzioni di metodologia solamente per l'edizione 2020 in seguito, purtroppo. alla pandemia della cosa Covid. Quanti saranno gli autori e quanti i luoghi? Gli espositori sono centinaia, ancora stiamo facendo l'inventario di questa straordinaria risposta che abbiamo ricevuto da tutte le parti del mondo. Presto potremo comunicarlo, però sono oltre 100 fanzine / espositori da tutte le parti del mondo. Mentre invece gli spazi sono divisi ovviamente in quartieri. Abbiamo per il Pigneto la libreria di Leporello, la libreria Marini, la Risma Bookshop, a San Lorenzo abbiamo Yogurt Magazine e Paper Room, la Legatoria Romana, l'Istituto Superiore di Fotografia che per l'occasione ci ospiterà, a Nomentano Inferno Store, a Monte Sacro Sinestetica, a Quarto Miglio Studio Chroma, a Ostiense Officine Fotografiche Roma, questo è un luogo importante, Garbatella Casetta Rossa, a San Paolo USB Fotografi, Marconi Tana Libera Ruti, Monteverde Centro Sperimentale di Fotografia CFF Adams. Questi sono gli spazi attualmente che parteciperanno, diciamo, hanno aderito al progetto Fondico 2020. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti internet per i dettagli? Sul nostro sito ufficiale che è www.fanzinafest.com. Poi siamo presenti sia su Instagram Fanzilla Fest sia su Facebook. Fanzilla Expo 2020, Rome Pandemic Photo Zine Edition, dal 15 ottobre al 19 novembre. Un saluto e un ringraziamento a Marco Schöllner del collettivo Fanzilla. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille a tutti. Con Pablito El Drito per parlare del suo libro Diversamente Pusher, che sarà presentato venerdì 16 ottobre 2020 al centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, e a seguire poi un DJ set sempre suo. Pablito, ben trovato. Ciao, un saluto agli ascoltatori. Raccontaci un po' di cosa si tratta. Un incrocio tra un libro di storia orale e un'inchiesta vera e propria. Ed è infatti un'indagine su un argomento molto controverso e scivoloso, che è quello dello spaccio di droga. E io ho realizzato, tramite una serie di interviste a fusce indipendenti, dei racconti, una derivata dei racconti, che parlano di, appunto, traffico di stupefacenti, però al di fuori del circuito mafioso, potremmo dire. Com'era nato il progetto? Questo è un libro che per la verità avrei sempre voluto fare, solo che chiaramente esordire con una roba di questo tipo sarebbe stato impossibile. Per cui a un certo punto ho già pubblicato Rave in Italy e il mio editore Marco Filopat, quando gli ho proposto questo tipo di lavoro, mi ha subito detto ok, mi sembra una figata, però c'erano appunto alcune criticità. Intanto trovare le persone giuste da intervistare. E poi anche quello di garantire l'anonimato a queste persone e di levarne un racconto che fosse interessante per la casa editrice, che notoriamente si occupa di culture antagoniste, no? E quindi all'inizio io non avevo ancora chiara in testa quello che sarebbe venuto fuori, no? È come quando fa un documentario, tu dici ok, mi muovo nei bassi fondi, cerco questi battitori liberi, cioè persone che non lavorano con la criminalità organizzata, ma che in sostanza o producono droga e la rivendono, o rubano droga e la rivendono, o la comprano direttamente dalle fonti e la rivendono nel loro circuito. Per cui ho creato questa rete, all'inizio i pusher erano una ventina, ne ho scartate 8 e ho lasciato 12 racconti, perché il libro non è sotto forma di intervista, ma è sotto forma di racconto. Quindi è un lavoro, possiamo dire, etnografico, no? Io mi calo in quel determinato tipo di situazione, entro in relazione con questa persona che svolge questo tipo di attività e cerco di parlare di alcuni temi, tra cui il discorso etico, perché quello che penso io è che alla fine sia un libro che, senza rompere troppo i coglioni su questa cosa, però si occupa in fondo del delicatissimo rapporto tra noi come esseri umani, come compagni soprattutto, e il consumo di sostanze stupefacenti. Che mosaico hai messo insieme? Cosa viene fuori? Intanto il battitore libero non può, vista la natura del ragionamento, cioè lavorare al di fuori del circuito della criminalità organizzata, lavorare con alcune sostanze. che sono monopolio assoluto delle mafie, come per esempio l'eroina e la cocaina, che infatti sono sullo sfondo dei racconti, ma che non riguardano direttamente i battitori. Poi c'è un'altra droga che cui la mafia è molto coinvolta, che è appunto il discorso del fumo, dell'hashish, della marijuana, in cui però esistono anche alternative più etiche, come per esempio l'autoproduzione. Quello che viene fuori è che le mafie di fatto sono interessate a queste sostanze, quindi eroina, cocaina e grosse quantità di fumo, mentre che poi non sono interessate, perché non sono difficilmente vendibili, ad altre sostanze come appunto l'anfetamina, l'MDMA, la chetamina, l'oppio o altre sostanze minori che, non essendo gestite dalle mafie, non diventano monopolio delle mafie. Anche il fumo rientra tra queste sostanze. Poi vabbè, si parla anche ovviamente di LSD e di altri allucinogeni e patogeni minori. Per quanto riguarda le droghe sintetiche, è un reticolato anche più diffuso e meno controllato o no? Se è vero che negli anni 90, in certi momenti, le grandi organizzazioni, mi riferisco all'Ndrangheta e alla Camorra, avevano provato a entrare nel mercato dell'ecstasy, cioè vendevano le pasticche, per capirsi, è vero che poi hanno smesso, perché per loro è un side business che hanno, almeno quello che risulta dai miei racconti, abbandonato. Per cui c'è un conflitto tra queste droghe, diciamo mainstream, quindi coca, roba e principalmente anche fumo, e che hanno dei circuiti spessissimo mafiosi, e le altre sostanze che invece si muovono intorno a pratiche completamente diverse. Cioè non esiste il supermarket della droga, della chetamina, dello speed, delle pasticche, o magari è esistito per brevissimo periodo, ma non l'hanno spesso gestito i mafiosi. Quello che viene fuori è che la situazione è abbastanza drammatica, perché in Italia c'è un consumo di stupefacenti notevole, non ci sono politiche di riduzione del danno, e questo proprio sono gli stessi pusher che spesso vanno a preoccuparsi della salute dei loro clienti. Quello che viene fuori è che questi battitori liberi, per esempio, consumano la sostanza che vendono, hanno un rapporto diretto di vicinanza, spesso emotivo, col consumatore, e quindi agiscono fondamentalmente in maniera diversa rispetto a come agisce l'organizzazione criminale alla base a Scampia, piuttosto che alla base nei grandi piazze di spaccio come può essere Rogoredo, Ceriano Laghetto, o piuttosto che il Parco Le Groane, per fare gli esempi milanesi, ma ce ne saranno uguali a Roma, immagino, no? I venditori sono batterie spesso di stranieri molto organizzati che instradano, controllano le vedette, c'è quello che pesa, c'è quello che conta i soldi, cioè sono organizzazioni strutturate. Ecco, stiamo parlando di un modello invece completamente diverso, che niente a che vedere con questo, e quindi, come dire, però sono esperienze chiaramente di nicchia, minoritarie, cioè riguardano solo l'1% della sostanza che gira questo tipo di pratica. Che direzioni sta prendendo il traffico oggi in Italia? Questo è abbastanza complesso da dire, perché allora la questione del Covid sicuramente ha cambiato molte cose. Quello che posso dire rispetto a Milano è che il traffico di coca e roba non è mai terminato, cioè anche sotto il lockdown una settimana ci sono stati problemi, e poi in realtà, come dire, questa organizzazione ha trovato il modo comunque di far arrivare al consumatore, che non poteva più muoversi lui, però hanno trovato modo di portargliela, come dire, capitargli la sostanza a prezzo chiaramente maggiorato, ma questo significa che anche con tutto bloccato le mafie avevano stoccato una tal quantità di eroina e di cocaina che non hanno avuto nessun problema. Rispetto alle altre sostanze, quello che penso io è che c'è un mercato molto in crisi rispetto ad alcune di queste. Per esempio, le droghe da party si sono svalutate enormemente, perché chiaramente costano il 40% in meno di prima. Quando dico droghe da party, penso all'ecstasy in particolare, che praticamente in assenza di feste, di clubbing, non c'è richiesta, e per cui il prezzo va giù. Viceversa, la cosa drammatica è stato che, almeno per quanto riguarda Milano, che durante il Covid, ma anche dopo, si è alzato il prezzo dei cannabinoidi, quindi la canna costa di più. Noi non possiamo prevedere quello che succederà. Quello che ho notato anche è che è aumentato durante il Covid il consumo di psicofarmaci, sia prescritti legalmente che rimediati chissà come. Questo è un altro aspetto da tenere in considerazione, anche se appunto si tratta di droghe legali. Però appunto nel libro io parlo anche di dell'epidemia degli oppiacei in America, perché bisogna ricordarsi che la più grossa strage Io Piace degli ultimi 20 anni è venuta proprio negli Stati Uniti con sostanze comprate legalmente nelle farmacie o con ricette false, comunque grazie alle maglie larghe che hanno permesso le grandi aziende farmaceutiche americane. Già tenendo in considerazione che il discorso della tossicodipendenza ora passa anche tramite droghe legali, appunto gli psicofarmaci e altre sostanze che possono fortemente addittive. Ci sarà da parlarne al centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino venerdì 16 ottobre 2020, diversamente pusher. Un saluto e un ringraziamento all'autore Pablito Eldrito. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Un abbraccio a tutti i compagni, ci vediamo venerdì. Dopo la presentazione ci sarà una performance 8 bit che spero potrete gustarvi. Insomma, ci vediamo lì, dai, buona serata. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.